RadioTube Social Village di Marta Cagnola. 16:07 minuti, proprio in questo istante a Radio 24 iniziano le nostre due ore di diretta insieme con RadioTube Social Village e Social Network. La prima ora, come sempre, un sacco di spettacoli. Andremo dall'audio entertainment e capiamo un po' cos'è, al nostro appuntamento con I Love My Radio e poi l'incontro con un cantautore che io seguo con particolare attenzione e interesse. Parleremo anche di televisione. Poi la seconda ora, quella di RadioTube Social Network. Come sempre, tutta l'attualità della rete dalla rete, l'attualità della settimana vista attraverso quello che abbiamo condiviso, guardato, spedito sui social network ai nostri amici, alle nostre reti. 349-238-666 il numero per i vostri sms e whatsapp, e poi ci sono i miei account social su Twitter e su Instagram, @MartaCagnola. Vorrei iniziare con una clip. Beh, tra poco capirete chi è, perché si presenta e presenta anche di cosa si tratta. Allora non esistevano ovviamente televisione, web, documentari. Si sapeva poco delle terre lontane. Cominciano a sfilare davanti a questa regina giraffe, rinoceronti e altri animali esotici, tra lo stupore dei romani che non hanno mai visto questi animali. Mentre cresce lo stupore tra la folla, un brivido corre lungo la schiena della regina. Perché all'improvviso, tra i prigionieri che sfilano, in prima fila c'è proprio sua sorella, Arsinoe. È legata con delle catene d'argento. Lo sguardo di questa regina si incupisce e dice fra sé e sé: io non finirò così. Io mi toglierò la vita piuttosto che sfilare prigioniera. Lei è Cleopatra, l'ultima regina d'Egitto. Sono Alberto Angela e in questo podcast vi parlerò proprio di lei, di questa donna, di questa regina, a mio modo di pensare, una delle donne più straordinarie di tutti i tempi. Quanto ci piacciono i podcast, quanto ci piacciono gli audiolibri, audio o audio entertainment, cioè l'intrattenimento fatto solo con la voce. Beh, sicuramente c'è la radio, altrimenti non sareste con noi ad ascoltare RadioTube, o magari ci state ascoltando in podcast dall'app di Radio 24, dal sito di Radio 24, o magari ascoltate i nostri podcast esclusivi fatti appunto solo per il podcast e non per l'emissione radio, che trovate sempre sul sito di Radio 24 e sull'app di Radio 24. Ovviamente, cioè, il più bello è, ancora una poi smetto perché è quello che faccio io, ovviamente il più bello, Roberta in regia dice di sì, ma è proprio il mio, un giudizio obiettivo, per niente interessato. Ma scherzi a parte, io ho trovato una ricerca davvero interessante, perché il lockdown, il confinamento, questo periodo che abbiamo chiusi in casa, che abbiamo passato chiusi in casa, è stato un periodo importante per il segmento degli audiolibri e dei podcast. Lo conferma una ricerca che ha fatto Blogmeter per Audible, e noi abbiamo collegato a RadioTube il country manager di Audible per l'Italia, Marco Azzani. Bentornato a RadioTube, Marco. Grazie mille, grazie a voi. Vabbè, allora intanto diciamolo che questa Cleopatra di Alberto Angela è su Audible, e quindi io già so che insomma alla fine sarà un successo strepitoso, perché dove passa Alberto Angela poi non ce n'è più per nessuno, dobbiamo dirlo, quindi avete fatto un bel colpo con un podcast tutto suo. Beh, questi primi 5 giorni noi abbiamo pubblicato lunedì scorso il podcast di Alberto Angela. Questi primi 3 giorni in effetti l'hanno visto schizzare in testa alle classifiche di ascolto. Che strano, lui è una garanzia. Mi piace però sapere che nel momento in cui gli italiani sono rimasti chiusi in casa e quindi hanno avuto bisogno di intrattenimento, non solo non hanno abbandonato la radio, e ne abbiamo parlato con una ricerca che abbiamo presentato un po' di tempo fa, ma hanno anche approfondito il loro interesse per l'intrattenimento attraverso l'audio. Non è male, non era scontato, ed è una ricerca che dice molte cose, Marco. Sì, sì, certo. Poi qua si parla di audio parlato, quindi no, esclusa la musica, naturalmente, certo, lo certo. Dico per pura chiarezza. Eh sì, i numeri sono abbastanza straordinari perché ci hanno detto che nel periodo del lockdown in Italia le ricerche, le interazioni su internet a proposito di parole chiave come podcast o audiolibri sono, nel caso dei podcast, sono salite dell'80-90%, nel caso degli audiolibri addirittura del 227%, che è un numero straordinario. Ovviamente la spiegazione è abbastanza semplice. C'era già un trend di forte crescita che noi conosciamo dal 2016, quando abbiamo lanciato l'app di Audible in Italia. Infatti stiamo festeggiando proprio adesso il nostro quarto anno nel nostro paese. Ma poi, durante il periodo del lockdown, molte persone hanno chiaramente cercato contenuti di qualità per poter passare il tempo, per potersi magari, per magari anche rendere il proprio tempo più efficiente, per imparare una lingua, non solo per intrattenersi, o magari per intrattenere i bambini con delle favole. E questo chiaramente ha risultato in un vero e proprio boom per noi. Anche i grandi con le favole, Marco, ti confesso, perché l'ascolto delle favole è qualcosa che è dentro di noi, no? L'ascolto della parola orale è qualcosa che è proprio dentro il nostro cervello da sempre. C'era fra l'altro una ricerca molto interessante pubblicata in Inghilterra l'anno scorso che diceva come l'ascolto di un audiolibro o di un podcast stimola il cervello, una ricerca proprio fatta scientifica, stimola le reazioni neuronali molto più della visione di un film o della televisione. E questo è molto interessante, anche molto promettente secondo me, non solo per i podcast e gli audiolibri, ma anche per la radio. Sì, perché siamo fatti per persone intelligenti che vogliono diventare ancora più intelligenti, e questa cosa è molto importante. Mi è piaciuto molto anche il fatto che i millennial, cioè coloro che sono nati dall'inizio degli anni Ottanta in poi, sono particolarmente appassionati di audio entertainment, in particolare di contenuti streaming e di podcast. Sì, è vero. In particolare gli under 35, sia per, come dire, maggiore frequenza con il mondo mobile, con il digitale, sì, anche per una predilezione per contenuti più brevi, a episodi, sembrano essere molto più interessati e sensibili ai podcast che non magari generazioni più age. Il podcast non è altro che una forma serializzata di contenuti audio di una durata per ciascun episodio che va dai 20 minuti all'ora, dipende, c'è molta variabilità, però quindi diciamo episodi relativamente brevi e che quindi possono essere ascoltati in occasioni durante la giornata che non sono quelle ad esempio della lettura tradizionale dei libri o dei quotidiani, ma possono essere fatti anche mentre si fa altro, e che poi questo è il segreto del successo nostro di Audible anche con gli audiolibri. I momenti di ascolto sono veramente i più diversi, anche mentre si fa sport oppure si fanno le pulizie di casa, ecco. Verissimo, verissimo, confermo. Tra l'altro, successo voi avete fatto in questi anni aumentando del 100% di anno in anno, quindi vabbè, sì. Chapeau. Ultima cosa che volevo sottolineare è la vostra produzione di contenuti originali con una filiera veramente di centinaia di persone che lavorano, cioè sì. non è un prodotto da poco. No, noi abbiamo fatto un calcolo, noi utilizziamo molti studi di produzione sparsi sul territorio italiano, così come anche altri nostri partner, editori, ne usano altri, e abbiamo fatto un calcolo che le persone, sono più di 500 le persone che in maniera abbastanza stabile lavorano nella filiera dell'audiolibro o del podcast. In realtà, se dovessimo contare nel mondo dei podcast anche tutti quelli che vengono prodotti, diciamo, tra virgolette, dal basso, quindi autonomamente da persone che si autopubblicano, sarebbero in realtà molte di più, sarebbero probabilmente decine di migliaia. Qui però noi stiamo parlando di professionisti, di lettori, di voci, di doppiatori, di tecnici, ingegneri del suono, che sono in studio, purtroppo non hanno potuto lavorare durante il lockdown per un paio di mesi, adesso grazie a Dio nelle ultime settimane, grazie alle riaperture, tutto sta tornando nella normalità. E però cosa che ci fa piacere, perché è un indotto importantissimo sul quale noi stiamo investendo tanto per formare professionalità che fino a 4-5 anni fa non c'erano, perché non c'erano specificità del mondo dell'audiolibro o del podcast, e oggi invece le stiamo formando anche grazie a chi ha investito soprattutto nel mondo autoriale penso a Matteo Caccia, penso a Pablo Trincia, ma anche a tanti altri, magari nomi meno noti, che sono anche autori radiofonici o televisivi. Trincia è un ex Iena, Caccia è un autore, è un presentatore radiofonico che ha lavorato per tante radio, anche per Radio 24 ovviamente. Ancora nostra, ancora con noi, ancora con vostra, voi, certo, la stagione in corso è ritornata vostra. Sì. E quindi, ecco, grazie a loro che hanno anche uno spirito formativo, proprio una volontà quasi evangelica, no? di formare nuove persone al mondo del podcast, la filiera si sta allargando. Ottima cosa, quindi tutti al lavoro per sfornare un sacco di podcast e di audiolibri, perché ci siamo fermati per un po', ma adesso bisogna riprendere con grande lena. Grazie a Marco Azzani, grazie Country Manager di Audible per l'Italia. Buon lavoro e a presto, Marco, grazie. Anche a voi, grazie mille. Piccola pausa, traffico e poi un po' di musica. Sì, un po' di musica, tra poco. Radio Tube Social Village. Il pavimento ondeggia, tutti in strada, viene giù il soffitto, nei terremoti del profitto. Io non sono come te. Brucerete la storia, poi millanterete le verità celesti, isolando i diversi. Io non sono come te. Io credo alle pozzanghere che specchiano comete, a questo odore violento della vita per le strade, che ci fa vinti e vivi sotto il temporale. Un brano che è uscito non a caso il 2 di giugno perché è un brano dedicato al nostro paese, Un'altra Italia, ed è un brano di un autore che io amo tantissimo, che già vi ho presentato a Radio 24, ma che mi fa piacere ritrovare a Radio Tube, ed è Vincenzo Incenzo. Ciao Vincenzo, come stai? Ciao Marta, benissimo, benissimo e contentissimo di rivederti, vuol dire che le cose stanno riprendendo in qualche modo anche sotto l'aspetto della divulgazione dei progetti, no? Mentre uno è stato così a concepirli, adesso finalmente è il momento di rappresentarli un pochino. Per chi non avesse ascoltato il nostro primo incontro di qualche tempo fa, ho detto che ti ho presentato perché tu sei una di quelle persone il cui nome abbiamo letto per anni, che abbiamo sentito nelle firme delle canzoni e poi, insomma, con un suono così particolare, Vincenzo Incenzo è un nome che si ricorda. Poi a un certo punto, invece di stare solamente dietro alle grandi canzoni, hai detto: mi metto in gioco. Se hai deciso di andare avanti, allora quella prima avventura è andata bene. Beh, direi molto, molto gratificante. Poi, arrivata in questa fase della vita, è come quando hai un figlio in età avanzata, diciamo, ti sembra una gioia ancora più grande. Per me, che poi avevo cominciato questo percorso a 18 anni sognando di fare questo, poi alla fine, no? Poi questo lavoro dell'autore quasi inconsapevolmente mi ha preso la mano per quasi 3 decenni, ecco. Però voglio dire, è stato un bellissimo viaggio, tra l'altro confortato dall'appoggio sia esecutivo proprio sia emozionale di Renato Zero, che ha prodotto il disco. Poi siamo andati in America Latina in estate, ho fatto conoscere il disco lì, l'ho tradotto in spagnolo, è stato molto utile per me come crescita anche come cantante, aver cantato tanto lì su tanti palcoscenici eccetera, e quindi non ho mai, come dire, smesso di scrivere in tutto il percorso perché ero molto entusiasta. E mi sono ritrovato questo pugno di canzoni quasi in automatico, per cui adesso sono tutte dentro questo nuovo progetto e sono pronte, insomma, ad essere ascoltate. Quindi dopo Credo ci sarà un altro album, sì. So che c'è già il titolo, quando arriverà? Dunque l'album arriva il 4 settembre, ci sarà ancora un'estate prima di un'altra Italia, dopo Un'altra Italia, e poi l'album uscirà a settembre, si intitola Ego. Ed è una scommessa questo titolo, perché solitamente quando si usa questo termine Subito vengono in mente, come dire, dimensioni di narcisismo, autoreferenzialità e quant'altro, ma in verità io volevo restituire a questo termine il giusto e autentico significato, che l'ego è proprio quell'entità che regola il nostro equilibrio tra parte pubblica e parte intima, privata, emozionale, eccetera, e credo che debba avere un ruolo fondamentale nei prossimi anni questa entità, che un po' si è persa, che si è confusa nella folla. Invece dobbiamo tornare a dire: io ci sono, io faccio questo, io sono fragile, però ho anch'io le mie qualità, ho le mie differenze. Credo che l'ego debba tornare centrale e uscire un po' dalla folla, che è così rassicurante, però ti nega poi altre cose, la libertà, l'identità, eccetera. Ora siamo anche ancora più smaterializzati con queste mascherine, insomma, siamo poco riconoscibili, ancora di più siamo meno riconoscibili, perché insomma, ecco, ormai di noi si vedono solo gli occhi, per cui speriamo di tornare, come dire, a una centralità anche estetica, oltre che emotiva. È importante esserci, farsi vedere, essere tanti e ognuno con la propria differenza. Vincenzo, com'è stata per te questa fase di isolamento? Hai scritto in questo periodo un'altra Italia? L'avevi scritta prima? Allora, io sono comunque un autorecluso, nel senso che passo molto tempo a casa a lavorare, a scrivere, perché in questo periodo ho lavorato anche con altri artisti. È stato bello riprendere collaborazioni anche con, per esempio, con elementi della PFM, abbiamo scritto delle canzoni. Forse questa, anche, come dire, un certo sentimento di noia poi dopo ha stimolato anche situazioni che si erano un pochino calcificate, no? E un'altra Italia invece nasce in tempi non sospetti, circa un anno fa, e credo che il fatto che sembri così urgente, sembri scritta questa mattina, dipende solo dal fatto che secondo me questa pandemia, questo lockdown abbiano in qualche modo fatto ancora più luce sui mali e sulle cose belle di questo nostro paese, insomma, no? Sono emerse tante carenze, potremmo parlarne per ore, dalla lentezza della macchina burocratica a tante altre cose, però è uscita fuori anche tutta quell'Italia, diciamo, di solito meno visibile, che lotta tutti i giorni, che soffre, che si impegna e che ha questa capacità incredibile, credo solo italiana, di riadattarsi, di plasmarsi nel disagio e di essere comunque creativa, di trovare sempre una misura per sopravvivere, per galleggiare. E un po' a quell'Italia lì è dedicata la canzone, a questa Italia che scava anche nelle macerie per rimanere viva, insomma, e lo trovo un sentimento e una forza tutta italiana che dovrebbe essere valorizzata. Forse basterebbe davvero, come dire, mettere al centro questa energia per risolvere i problemi del paese. Sembra quasi che sia un paese che ha nel suo popolo, nel suo basso, la capacità quasi di autogovernarsi, di risolvere comunque il problema, anche quando il problema sembra appare irrisolvibile. Hai collaborato, non so, con Renato Zero, Michele Zarrillo, ma quando usciva il loro disco erano loro, sì, sotto la lente del pubblico, della critica, appunto, dei colleghi. I pareri degli altri invece quanto sono importanti per te? Molto, molto. Il parere degli artisti, mi ha fatto piacere ricevere tanti messaggi dagli artisti, persone con cui ho lavorato e anche no. È un modo, come dire, un po' di aver legittimato un po' questo nuovo percorso, insomma, dopo che è quasi una terza vita, no? Dopo aver fatto l'autore di canzoni, poi il teatro e adesso questa avventura un po' folle, un po' fuori tempo, sembra quasi, però è così appassionante, insomma. E quindi è stato il primo impatto è stato proprio con loro. Mi hanno scritto da Ronna, da Alberto Fortis, persone con cui io mi misuro sempre, la PFM, eccetera, eccetera. E il loro riscontro è stato fondamentale. Poi vedo questi commenti, insomma, sui social, della gente che mi scrive, mi sorprende e non sono preparato, sono ancora molto inadeguato a avere un mio pubblico, insomma gente che mi scrive espressamente non per parlare di una canzone che ho condiviso magari come dici tu con Zarrillo, con Zero, che bella quella canzone che avete fatto, ma per qualcosa che si determina nella mia sfera e basta, insomma. È molto bello, ti ripeto, il fatto di aver raggiunto questa cosa ora me la fa vivere con grande serenità e con grandissima gioia. Sono un adolescente in questo senso, per me è un battesimo quasi, no? Un'esperienza completamente nuova ed è molto bella. Spero di supportarla con i concerti, perché è stato molto bello farli sia qui che in America Latina, e spero presto ritornare lì, perché quella è la dimensione poi più gratificante. Adesso sono i giorni in cui si riapre. Stai già pensando a come portare in giro Ego quando uscirà? Sì, mi chiedevo se intanto si possa fare una prima passeggiata negli store per farlo conoscere. Non conosco ancora proprio le disposizioni che verranno date, però il primo passo dovrebbe essere quello. Poi sicuramente i concerti, sia qui dovunque sarà possibile. A me piace andare a suonare nel piccolo teatro come nel locale da 50 posti, cioè è bellissimo, sono felice di andare a suonare ovunque. E poi questo rapporto che si è aperto con l'America Latina è straordinario. Ho avuto la possibilità di fare dei palchi molto importanti, perché sono entrato in festival importanti. Ho collaborazione con questa grande star colombiana che si chiama Carlos Vives, che è un artista straordinario. Avevamo anche progettato un duetto che purtroppo slitterà più avanti, perché questa cosa della pandemia ci ha fermato tutti i voli, insomma. Quindi tra l'Italia e l'America Latina continueranno, dovunque sarà possibile andrò a suonare. Io ti faccio un in bocca al lupo enorme. Intanto, adesso è il momento di un'altra Italia, forse in generale è il momento di un'altra Italia, poi aspettiamo un altro singolo e poi aspettiamo un altro album. Io lo sai che ti seguo sempre con grande affetto, perché quando un artista ha una storia così autentica si merita davvero tanta attenzione. Grazie a Vincenzo Incenso. Grazie. Grazie Marta. Grazie sempre. Radio Tube Social Village. Ed è arrivato il nostro momento settimanale con I Love My Radio, cioè quei fantastici 45 anni di successi radiofonici, le 45 canzoni da votare sul sito ilovemyradio.it, ma anche le cover. Questa settimana la cover è quella, vabbè, basta sentire qualche nota, capite subito la canzone, il cantante, ecco qua. Dimmi quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca, forse in Africa, che importa, tu dimmi quando. Marco Mengoni con Quando di Pino Daniele. C'è un po' di conflitto di interessi però, perché tra poco lo scoprirete, tra poco scoprirete perché. Andiamo a scoprire altri 5 anni intanto di questi 45 anni di I Love My Radio, di queste 45 canzoni che vanno votate per stabilire quale sarà la canzone più amata dai 45 milioni di ascoltatori delle radio italiane. Tutte insieme, e come ogni settimana facciamo un viaggio nelle canzoni di un quinquennio, partendo dal 1990. Partiamo subito dal 1990. Dai, Roberta. L'incontri dove la gente viaggia e va a telefonare, col topo barba che sa di pioggia e la 24 ore, perduti nel Corriere della Sera, nel vaivieni di una cameriera, ma perché ogni giorno viene sera. 1990, Uomini soli, Pooh. Cosa possiamo sapere di più di questa Uomini soli, ma di tutte le canzoni di questo quinquennio che stiamo per affrontare? Ovviamente ci colleghiamo con l'autore del blog Suoni nell'etere, Simone Fattori. Ciao Simone. Eccoci, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Marta, Simone. Buon pomeriggio agli ascoltatori. Allora, cosa possiamo dire? Si parla di solitudine, così la butto lì oggi in questo quinquennio. Erano anni soli. Erano anni di grande solitudine. Questa è la solitudine metropolitana, quella che cantano i Pooh al Festival di Sanremo, tra l'altro un Festival di Sanremo con tante particolarità quell'anno. Innanzitutto è il Festival di Sanremo che non si tiene al Teatro Ariston, ma si tiene al Palafiori. Torna l'orchestra dopo 10 anni di assenza, è il Festival di Dorelli e Gabriella Carlucci, e soprattutto è, credo, a mia memoria almeno, il Festival di Sanremo con il vincitore più annunciato di tutti. Insomma, quell'anno non c'era assolutamente partita, perché appunto c'erano i Pooh che portano questa canzone firmata Robby Facchinetti, Valerio Negrini. Io direi, insomma, occasione anche questa per ricordare un grande autore della musica italiana mai troppo celebrato come Valerio Negrini. E l'anno è anche quello delle cover in una lingua straniera, quasi sempre in inglese. Questa canzone la cantò anche Didi Bridgewater e in inglese divenne Angel of the Night. Simone, dai, passiamo al 1991. Passiamo al 1991, perché devo spiegare questa storia del conflitto di interesse. Perché cosa c'è nel 1991? Questa. Abbiamo sentito la cover di Marco Mengoni di questa settimana e la cover delle radio italiane, che va in onda solo sulle radio italiane, per quanto riguarda il progetto I Love My Radio, e quando è anche la canzone del 1991. È una coincidenza, che ne parliamo questa settimana, Simone. Sì, c'è anche un'altra cover più avanti, ma ne parliamo tra poco. Sì, questa è una di quelle occasioni, questa canzone del 1991, nelle quali, come ebbe a dire Massimo Troisi, Pino Daniele lo chiamava, gli diceva: ho scritto una canzone, faccio un film intorno. Sì. Perché questa è la colonna sonora di Pensavo fosse amore, invece era un Calesse, nella quale, tra l'altro, ci sono dei filmati in giro nei quali Pino Daniele fa ascoltare per la prima volta questa canzone a Massimo Troisi. Massimo Troisi mette anche lo zampino in questa canzone, perché cambia completamente un verso, anzi cambia completamente il ritornello, perché in origine Pino Daniele aveva scritto tutto il giorno per vederti ballare fra i ricordi di una vita normale, e poi invece sappiamo tutti a memoria come è invece stata cambiata e come è uscita. Colonna sonora di questo bellissimo film, grande collaborazione con Massimo Troisi e grande successo di quell'anno, inclusa nell'album Sotto Sole. 1992, ecco cosa c'è invece nel 92, appunto. Anche la moto usata ma tenuta bene. Cosa dire? Cioè, classici su classici. Anche in questo lustro è un po' difficile. 92, poi sono gli anni del mio liceo, quindi io sono molto affezionata a questo periodo. Luca Carboni. Simone, che vogliamo diciamo? Dire? Che vogliamo dire? Il tormentone estivo più anomalo della storia della musica italiana, probabilmente, perché è una canzone che tutto sommato non è così allegra, o comunque racconta di una sconfitta, racconta di un viaggio che molti di noi hanno fatto, anch'io devo dire qualche anno prima, esattamente un anno prima. Il sottotitolo di questa Mare Mare è Bologna-Riccione. Perché? Perché il protagonista la fa in moto, fa questo tragitto in moto per andare al mare, mare per conoscere le ragazze, immaginando una serata sfavillante che in realtà non c'è. La serata si conclude all'alba sul molo a guardare il mare inesorabilmente da soli. Però nonostante questo diventa un tormentone estivo, potenza devo dire della parola mare, che vince il Festival Bar e vota la voce insieme, così tutto per tutto in quell'anno, ed è inclusa nell'album Carboni di Luca Carboni, quello tra l'altro dove c'è anche il fisico bestiolo, il fisico bestiale, insomma, famoso anche per questo. È la canzone del 1992, che è anche una delle cover di I Love My Radio, cantata da Elisa, l'abbiamo ascoltata. La prima delle settimana. Cover. Devo dire che mi hai fatto venire in una botta sola nostalgia del Festival Bar e di Vota la Voce, proprio una cosa da anziani. Ma più avanti ci sarà un altro concorso da citare e ricordare, tra poco. Sì, beh, subito, 1993. Se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, un Marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu. Abbiamo detto che erano anni di solitudine, battutona. Abbiamo iniziato con Uomini Soli, poi la solitudine. È sempre quel concorso là. È sempre quel concorso là. Il mio primo Festival di Sanremo. Infatti stavo chiedendo, è questo il tuo primo Festival di Sanremo? Questo è il mio primo Festival di Sanremo. Una delle prime interviste a Laura Pausini, che arriva a quel festival che non ha neanche 19 anni, con un brano scritto da due non professionisti. Sono due impiegati dell'IBM, Pietro Cremonesi e Federico Cavalli, che hanno scritto questa canzone, tra l'altro non tutti lo sanno, al maschile. Con una curiosità, perché il protagonista della canzone non era Marco, ma essendo stata scritta per un interprete maschile, la protagonista era Anna. Anna e Marco ci ricorda anche qualcos'altro. Certo, ma insomma, bella citazione. Bella citazione, devo dire, trovata assolutamente per caso, però quando si dice nel destino di una canzone. L'ascolta Laura Pausini, che non ha ancora inciso nessun brano fino a quel momento, chiede soltanto di cambiare, ovviamente di trasporla al femminile, per un interprete femminile, ma di cambiare il nome in Marco, perché è effettivamente il fidanzatino con il quale si è appena lasciata, non perché è andato a vivere in un'altra città come recita la canzone, ma perché insomma l'ha tradita con una sua amica. Marco quindi era effettivamente l'ex fidanzatino di Laura Pausini, e lei effettivamente alle 7:30 in quel periodo prendeva il treno per andare a scuola. E quindi, come vedi, tutto torna, grande successo, vince tra le nuove proposte al Festival di Sanremo. All'inizio insomma i critici non la vedono di buon occhio, ma comincia già a vendere subito in tutto il mondo. Ci sono due versioni di Laura Pausini, una in spagnolo, La Soledad, e una in inglese, Loneliness, di questa canzone. E poi ci sono delle cover in tantissime lingue, tra cui il greco, l'olandese, insomma una canzone famosissima che dà il via in quel momento, nel 1993, dal Festival di Sanremo alla carriera sfavillante di Laura Pausini. E andiamo a sentire cosa c'è nel 1994. Le notti non finiscono all'alba nella via, le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia, e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere, sperando di vederti ancora qui. Inutile parlarne, sai, non capiresti mai. Seguirti fino all'alba e poi. Allora, io non posso dire il dibattito che c'è stato fuori onda tra me e Edoardo Lavezzari, perché abbiamo le nostre preferite, ma siamo super partes, non possiamo dire quali sono. Simone, 1994, come mai 883? Come mai 883 ci dà, 883 ci dà l'occasione per parlare di un altro concorso che probabilmente Canoro, che ricordiamo io e te e pochissimi altri, e cioè il Festival Italiano. Ti ricordi? Certo, era la risposta certo. Mediaset al Festival di Sanremo. Ecco, questa canzone vince il Festival Italiano. Ma all'inizio, secondo me, non avevano creduto molto in questa canzone, inclusa in un album che ha venduto tantissimo, Nord, Sud, Ovest, Est, che ha venduto circa 1.300.000 copie, perché esce come terzo singolo. Insomma, cercavano singoli più movimentati. Tra l'altro Max Pezzali ha dichiarato poco tempo fa che lui questa canzone l'aveva scritta per Massimo Ranieri, che invece non ha voluto cantarla e quindi l'ha inclusa in questo album. Perché dico che non ci hanno creduto sin dall'inizio, anche se poi è diventata una canzone di grandissimo successo, tanto che autori celebratissimi della musica italiana ultimamente hanno detto è la canzone italiana perfetta, la canzone pop perfetta. Perché non ha neanche un video questa canzone, cioè il primo video uscito di questa canzone è fatto con il backstage del video di Nord, Sud, Ovest, Est, e l'altro invece è con le immagini del compleanno di Mauro Repetto, nella versione tra l'altro che uscì poco dopo, cantata in duetto con Fiorello, che addirittura poi a un certo punto su una strofa faceva delle imitazioni, e quindi sembra un duetto allargato a Ruggeri, Vasco Rossi, Guccini, Claudio Baglioni, Battiato. Una versione ulteriore di questa canzone del 1994, che se non sbaglio è l'ultimo atto dell'unione Max Pezzali, Mauro Repetto, che poi divisero le loro strade, ma potrei anche sbagliarmi. Chiedo aiuto agli ascoltatori. Che qualcosa ci scriveranno. Già è arrivato un messaggio sui Pooh che hanno vinto Sanremo. Quell'anno c'era Ray Charles con Toto Cutugno, vinsero i Pooh e Cutugno disse: non vinco neanche con Ray Charles. In effetti è una frase molto da Toto Cutugno. Era anche però l'anno di Vattene Amore, vorrei dire, sì. In chiusura con Nicca Costa. Ragazzi, che anno, che anno. Simone, ci ritroviamo la prossima settimana con Simone Fattori e con I Love My Radio. Grazie Simone, al sabato prossimo. Grazie, a sabato prossimo. Traffico e poi saremo ancora insieme per parlare di televisione. Radio Tube Social Village. Abbiamo parlato di musica con I Love My Radio, abbiamo parlato di musica incontrando Vincenzo Incenso, firma fondamentale della musica italiana, che si sta mettendo in gioco con successo come cantautore. Abbiamo parlato di audio entertainment, cioè di podcast e di audiolibri con Audible, e adesso parliamo un po' di televisione, quella tradizionale, perché d'estate ci piace anche un po' in quelle serate in cui si tengono aperte le finestre ma con lo zampirone perché sennò entrano le zanzare, e non accendi la luce perché sennò entrano le zanzare, però tieni accesa solo la TV, e poi passeggi per strada e vedi televisori accesi dalle finestre degli altri aperte ma con la luce spenta perché sennò entrano le zanzare. Cosa succederà in TV quest'estate? Estate che sta già per cominciare, perché stanno iniziando le trasmissioni estive, anzi ha presentato il suo nuovo show Carlo Conti. Sentiamo subito cosa ha dichiarato Carlo Conti in conferenza stampa e poi ne parliamo con un amico di RadioTube. Gioca sulle classifiche, non soltanto musicali ma di tutti i tipi, tante curiosità. Sarà protagonista la memoria, perché andremo avanti e indietro nel tempo, sarà divertente giocare anche da casa e scoprire quale canzone, o ricordare quale canzone era al primo posto in un certo anno, oppure tante curiosità, perché come vi ho detto non giocheremo solo con la musica, ma per esempio giocheremo con le cose più rubate negli alberghi. C'è una classifica che ci dice gli oggetti più rubati negli alberghi o gli oggetti smarriti maggiormente nei mezzi pubblici. Com'è consolante, com'è tranquillizzante sapere che la vita ricomincia. Abbiamo anche uno show di Carlo Conti tutto nuovo. Si chiamerà Top 10 o Top 10, non ho capito come verrà chiamato, magari ne sa qualcosa più di me. Un carissimo amico mio e di RadioTube ha twittato anche una sua foto con mascherina. Strategica come foto, mi è piaciuta molto. Francesco Canino, ciao Francesco. Ciao Marta. Quanto ci hai preso gusto al selfie con mascherina, malandrino. Sì. Tra l'altro perché stamattina continuavo a fare code su code, quindi mi annoiavo, e allora bravo. È scattato il senso. Sai che sono tua fan. Allora, come lo chiamiamo? Top oh amore. Top 10? Top 10, come lo chiamiamo? Sì, io direi top 10. Top 10, perfetto. Top 10, dai, è una cosa a me tranquillizza molto, cioè ricominciamo, anche se in maniera un po' particolare, con la TV tradizionale. Dai, siamo un po' nazional popolari. Sì. Esatto, sì, ma bello finalmente, non facciamo sempre gli snob, insomma, vogliamo, tocchiamoci un po' le mani, mettiamo l'alto e il basso. Poi Carlo Conti è un signor conduttore e tra l'altro poi gioca anche con materie che come dire, ci gioca un po' con la mano sinistra, no? Perché la memoria, la musica, sì, sono quelle cose, sì, sono cose che lui conosce benissimo. Non a caso Coletta, che è il direttore di Rai 1, che è un grande stratega ed è un grande conoscitore di televisione, dopo queste quattro puntate di Top 10, che diciamo è una sorta di esperimento, poi mette in coda le repliche di I migliori anni, che è un altro show storico di Carlo Conti. Io sono curioso però di vedere Carlo Conti alle prese con questo nuovo programma, che dovrà fare a meno del pubblico, a meno di un'orchestra, a meno del corpo di ballo, cioè dovrà giocare ancora di più di sottrazione e metterci ancora più ritmo. Ma lui, diciamo, il ritmo ce l'ha, come dire, nel sangue, nell'impostazione, proprio nel DNA, e quindi siccome giocherà facile, posso dirti. Sì, devo dire che sono curioso. Molto curiosa domani sera, no? la serata sì, in cui debutta. Debutta domenica, poi sposta il venerdì, che è un'altra sua collocazione fissa, diciamo, non c'è il calcio e quindi può tornare poi in onda il venerdì. Tra l'altro vedo che la D'Urso, che va in onda, se non sbaglio con la penultima puntata di Milano nella D'Urso, spara una super puntata con una scaletta molto densa, probabilmente per tenere un po' botta, no? alla concorrenza, certo, di Carlo, certo, Conti. Certo. Altre novità estive, dai, un paio di novità estive ce le racconti? Ma allora, diciamo che sarà come se l'estate televisiva di solito è piuttosto sonnacchiosa ed è la, come dire, dominano incontrastate le repliche. Quest'anno gioco forza ancora di più, sarà un'estate di grandi repliche. Diciamo sul fronte della prima serata, a parte Carlo Conti, non ci sono grandissime novità, tranne le nuove puntate di Super Quark, con il mitologico Piero Angela, che, come dire, è una colonna del palinsesto estivo di Rai 1. Poi invece su Canale 5 tante repliche, diverse serie TV straniere, e poi per gli appassionati del genere torna il titolo per eccellenza dell'estate, che è Temptation Island. Certo. E come si fa con le coppie? Ma allora, in realtà, come dire, la Fasci, no? Che è la casa di produzione, sì, di Maria De Filippi, si è già messa alla prova con Amici Speciali, hanno testato tutti i concorrenti, li hanno isolati, quindi diciamo che da quel punto di vista sono già preparati, hanno già lavorato in piena pandemia, quindi anche in questa fase. E diciamo che a Temptation Island succedono cose un po' più ravvicinate, esatto, che ad Amici. Sì, ecco, però... diciamo che quegli incontri probabilmente saranno un po' più soft, non vedremo, magari vedremo i baci con la mascherina, come è accaduto a Uomini e Donne, si sono baciati nella scelta finale con la mascherina. Però diciamo che avviene in un luogo chiuso, che è un villaggio turistico, quindi probabilmente tutto il cast, tutta tutto il gruppo di lavoro verrà testato prima, quindi diciamo che da quel punto di vista sono abbastanza tranquilli. Sono curioso di capire quale sarà la formula, che presumo sarà una formula ibrida, come ha scritto anche Giuseppe Candela sul Fatto Quotidiano, perché quest'anno ci sarà i VIP saranno mescolati ai NIP, cioè ai non famosi. Quindi parte Filippo Bisciglia, poi forse a settembre una versione non famosa con Alessia Marcuzzi, per cui il panizzetto di Canale 5 è ancora molto in divenire, e quindi vediamo, insomma, il reality delle corna dà sempre grandi soddisfazioni. Sì, è vero, è vero, è proprio un guilty pleasure che poi uno commenta, esatto, sui social. E invece a proposito, sì, di guilty pleasure, so che sfonderò una porta aperta con te, dal 29 di giugno torna Teche Teche Teche. E questa era la domanda che volevo farti in chiusura, torna Teche Teche Teche, è proprio il mio appuntamento estivo, sono a posto. Torna, stanno già lavorando alle puntate, insomma, per cui ci saranno tanti speciali monografici che sono diventati un po' la punta di diamante dell'estate di Rai 1, no? Sono delle chicche clamorose. E a proposito di Kick, se posso, se abbiamo ancora un attimo abbiamo di tempo, ancora un minuto. Per chi non l'ha vista su Sky, dal 17 di giugno sulla 7 invece sbarca Chernobyl, una serie TV bellissima, dolorosissima, che io consiglio di vedere. Insomma, chi non l'ha ancora vista può rifarsi dal 17 giugno. Straconsigliata, bravissimo Francesco. Grazie a Francesco Canino che, come scrive sul suo Twitter, è giornalista e daltonico. Poi un giorno mi spiegherai che cosa ti dà nel tuo essere critico televisivo in più questa particolarità. Un giorno me lo spiegherai. Va bene, grazie Francesco, un abbraccio grande, a prestissimo. Grazie. Allora, noi ci ritroviamo dopo il giornale radio delle 17, c'è già pronta Maria Piera Ceci a condurlo, ci ritroviamo con l'ora di RadioTube Social Network tra qualche minuto.